Essere e benessere. Ed eccoci arrivati al terzo appuntamento con la nostra biblioterapia. Naturalmente qua accanto a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Insomma, tu ti stai riposando dalle fatiche di questa casa, non è un albergo, ma non riesci, faccio riposare. No, mi hai dato dei compiti delle vacanze, ma sai che mi hai dato dei compiti bellissimi, perché tutte le settimane mi aiuti a scegliere qualche libro da condividere con i nostri ascoltatori. Ah, e pensavo che tu dicessi, questo è un piacere tornare con te tutte le settimane. Certo che ci torno molto volentieri. Allora, ogni spazio della nostra biblioterapia, lo ricordiamo agli ascoltatori che magari lo sentono per la prima volta, ha un obiettivo ben preciso. Suggeriamo dei libri, ma con un intento. Andare a riscoprire parti di noi, parti della nostra storia, emozioni che certamente abitano la nostra storia di vita, e soprattutto anche andare un po' a reindagare attraverso le storie dei protagonisti dei libri che vi proponiamo il mondo delle relazioni familiari di cui siamo stati protagonisti e magari adesso siamo di nuovo protagonisti. Ed il libro che vi proponiamo oggi è un libro sulla crisi di coppia, vista però con gli occhi dei bambini. Allora iniziamo a sentire un piccolo estratto del libro a cui oggi abbiamo messo il bollino blu, che si intitola, Alberto? Due di tutto e una valigia, Notte Tempo Edizioni, l'autrice è Mila Venturini. Andiamo! Il 19 ottobre del 2006 fu una data indimenticabile. Non soltanto perché mia cugina Sofia compiva 13 anni, precedendomi di uno, ma anche perché quel giorno una congiuntura demenziale offuscò le menti di alcuni componenti della mia famiglia, dando un'altra direzione alla nostra esistenza. Papà quel giorno aveva depositato il gatto Rocco in una provvidenziale fattoria, dove l'animale era libero di orinare lontano dai suoi maglioni di cashmere. La partenza di Rocco mi lasciò indifferente. I nostri rapporti si erano guastati quando aveva marcato il suo territorio intorno al mio letto. Alle ore 16, la mia valigia e io fummo depositate da mia madre nella sala d'aspetto della nostra dentista. Capitava spesso di stazionare in questo luogo dai 30 minuti alle 2 ore e a volte di chiudere lo studio insieme alla titolare. Mia madre rivolse un sorriso complice agli altri pazienti in attesa, mi baciò e girò i tacchi. «Allora, tesoro, papà viene a prenderti tra una mezz'ora e ti porta a casa di zia Adele. Finita la festa di Sofia, ti raggiungo e ti riporto da papà. Oggi è un giorno suo, ti ricordi?» Tutte le volte che c'era di mezzo un fuori programma, un prurito fortissimo mi tormentava la gola. Fiutavo subito il pericolo. In linea con noi, Mila Venturini. Ciao, Mila! Ciao! Mila, io partirei dal titolo «Due di tutto e una valigia». Come l'hai scelto? Dunque, due di tutto, una valigia, perché questi due bambini, questi i protagonisti del romanzo, si trovano a vivere in due case, quindi a un certo punto avranno due spazzolini, due letti, appunto due di tutto, e c'è una valigia che la ragazza, che poi è Lio Narrante, la figlia più grande, dei due ragazzini la più grande, e, è una valigia che la ragazzina con i libri di scuola si porta sempre da una casa all'altra. Alberto, noi abbiamo scelto questo libro per così indagare la relazione di una coppia in crisi, ma con questa caratteristica, no? Guardata dagli occhi di un bambino che dice tante cose in più. E non è stata facile, ma noi abbiamo proprio scelto questo libro con un intento e per dedicare ad un profilo di lettore in particolare. Sì, intanto direi che serve a tutti i genitori, non solo a quelli che si stanno separando, si sono separati, perché c'è una freschezza, c'è una divertita e sapiente intelligenza proprio dei bambini nell'osservare. Beh, grazie tantissimo, i complimenti innanzitutto, mi fa molto piacere che abbiate colto questo elemento, diciamo. Ci sono una mamma e un papà che fanno tanti pasticci, questo lo fanno anche i genitori non separati. Questi sono proprio due genitori che faticano a trovare un loro modo di rimanere genitori nonostante la separazione. Sì, sono goffi, goffi, sono molto goffi in questo loro tentare di rimanere uniti come coppia genitoriale. Senti, sono due figure di genitori molto differenti tra loro. Mila, ce li tratteggi rapidamente, perché già lì è il bello, direi, sì, no? Sì, dunque, ecco. Devo dire che, premetto, siccome c'è naturalmente c'è un elemento autobiografico nel... Dunque, allora, i due genitori hanno dei caratteri molto diversi, che sono in minima parte ripresi da me e dal mio ex marito. Quindi sono stati naturalmente esasperati per poi fare dell'umorismo, sì, quello che il libro vuole fare anche molto. Dunque, niente, la madre è una pasticciona, è una, come possiamo dire, una ragazza un po' anni 70, se vogliamo, quindi completamente disorganizzata, lei non sa cucinare, non riesce a stare dietro a tutto. E anche un pochino ha delegato, diciamo, la crescita dei figli, insomma l'accudimento dei figli l'ha delegata al marito, che invece è un uomo molto pignolo e che fa della paternità, diciamo, la missione della sua vita. E che quindi è molto rivolto ai figli, lui è un architetto, un uomo molto preciso e che sta molto addosso a questi due bambini che poi cresceranno e diventeranno dei ragazzi nel libro, però lui è sempre molto presente. Senti, io penso che scrivendo un autore, lo scrittore si innamori di un personaggio più di un altro, è così? Un po' succede. Più di simpatia, ti è successo? Sì, guarda, dunque, allora, io faccio la sceneggiatrice, sì, in genere. In genere, insomma, questa cosa andrebbe evitata, i personaggi andrebbero amati o non tutti nello stesso modo, però in questo caso, naturalmente, io ho una forma di identificazione con la ragazzina, come posso dire... Sposo un po' la sua causa, non so come dire. E si vede, si legge, si sente, si vede, Alberto, perché questa è un po' la caratteristica che ci ha stupito e affascinato. Guarda, abbiamo scoperto questo libro leggendo un po' recensioni a destra e a sinistra e scoprendo che proprio era un libro molto amato dai lettori, e addirittura in un blog abbiamo letto questa definizione: racconta la verità molto più di tanti saggi sulla separazione. Quello che ho trovato io molto bello in questo libro è che chiaramente c'è dentro tanto dolore e tanta sofferenza, quindi non nasconde la verità, ma c'è dentro anche tanto amore, tanta tenerezza. E... sì, hai colto l'essenza del libro. Allora, se diciamo c'è un messaggio, tra virgolette, è questo, che comunque anche le famiglie di separati, no, anche in questo caos che è organizzativo, l'amore, se c'è l'amore, le cose poi possono essere recuperate. Infatti è una specie di romanzo di formazione, cioè alla fine la ragazza in qualche modo diventa quasi un capofamiglia, se vogliamo, no? Cioè si pacifica, perché comunque questi due genitori così caotici non negano mai l'amore. Ecco, penso che l'elemento amore, solidarietà sia sempre molto presente. Poi questo, secondo me, chi lo legge lo sa ancora meglio di chi lo scrive, non so come dire. Cioè, certe cose le capisci quando un lettore te le racconta. Non so. Senti, a proposito di lettori che raccontano, sì, qual è il commento al tuo libro che ti ha più colpito? Guarda, devo dire, di commenti ce ne sono stati tanti e molto belli, proprio questo elemento del romanzo di formazione, che naturalmente mi ha molto inorgoglito, perché io quando lo scrivevo non pensavo di arrivare a tanto, cioè il percorso della ragazza. Sì. E questa è una cosa che mi ha detto Patrizia Carrano, che è una grande sceneggiatrice e scrittrice. Cioè lei mi ha fatto notare questo elemento, cioè la ragazza dà una rabbia, perché naturalmente i bambini sono rabbiosi quando i genitori gli vanno a dire che si separano, è una notizia terribile per loro. Ecco, da questa rabbia che la bambina ha dentro di sé, e che naturalmente la carica di ironia, lei ha un'ironia anche a volte impietosa nei confronti dei genitori, poi però piano piano è come se riuscisse a capire che poi non è questa grande tragedia se si riesce appunto a mantenere un rapporto d'amore. In questo senso un romanzo di formazione, cioè la ragazza matura attraverso delle esperienze anche dolorose. Mila, a chi regaleresti il tuo libro? Una domanda che facciamo agli autori che incontriamo nello spazio di biblioterapia, voglio farla anche a te. Guarda, il mio libro lo regalerei ai genitori che secondo me non si separano ancora adesso bene, anche nella mia generazione, e cioè a quelli che secondo me usano i figli in modo come armi per colpire il coniuge. Mm. E quindi ancora sento dire cose tipo non ti faccio vedere tuo padre, non ti faccio vedere tua madre. Queste cose sono di tutti i giorni, insomma, ecco. Io vorrei che fosse, mi piacerebbe fosse un elemento un po' di riflessione per quelli che, per tutte le coppie che si separano in modo molto, molto duro, dimenticando che sono comunque dei genitori. E che i figli, insomma, si dovrebbe cercare di, così, di farli soffrire il meno possibile. Soprattutto perché si rimane genitori per sempre, per tutta la vita. E nonostante tutto, nonostante i nostri errori, le nostre fatiche, esatto, le nostre meschinerie. Mila, grazie veramente per questo libro e per essere stato con noi. Ci sei piaciuta grazie, molto. Grazie a voi. Bollino blu allora. Grazie a Mila. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Grazie. Alberto, noi invece continuiamo perché dopo esserci occupati dei grandi ci occupiamo come sempre anche dei piccoli e qua parte ancora il tuo compito che come sempre svolgi in modo magnifico. Allora, questa volta vi faccio entrare in casa mia almeno con due dei tre libri che vi propongo, perché il primo è un libro per i bambini della scuola elementare, se lo possono leggere da soli, e io ve lo consiglio perché questo è il libro che quest'estate abbiamo letto ad Alice, la nostra bambina di 7 anni, e che lei ha amato all'infinito. Ecco perché ve lo propongo come lettura sotto l'ombrellone. Lo sa quasi a memoria, Alberto, a forza di leggerlo e rileggerlo. Ci è piaciuto tanto, si chiama Sciroppo di lumache e altri rimedi. L'autrice è Zita Dazzi, Edizioni San Paolo, e è la storia di una nonna e di una nipote, e la nonna, che si chiama Nonna Topina, soprannominata Nonna Topina, ne fa di ogni. È molto più adolescente lei di qualsiasi adolescente. Quindi lo consigliamo ai bambini, ma regalatelo anche alle nonne. Sì, fa molto molto ridere. Leggetelo insieme. Poi, questo è un momento in cui vi consigliamo anche di fare inventare un gioco con i vostri figli, e è uscito Caccia al tesoro per tutte le occasioni di Marsilio Parolini, Edizioni San Paolo. Vi fa organizzare una caccia al tesoro dall'A alla Z. Rendete una giornata delle vostre vacanze indimenticabili. E questo è proprio un libro che vi permette di creare una caccia al tesoro che rimarrà per sempre nella memoria emotiva della vostra famiglia. E invece per le adolescenti è uscito Io canto da sola di Jessica Brando, una ragazzina di 15 anni che è salita sul palco del Festival di Sanremo. Racconta proprio la storia di una Cenerentola moderna. Sai perché mi è piaciuto questo libro? Perché lei, pur essendo salita sul palco di Sanremo, continua a raccontare una vita molto molto normale. Tra l'altro intuiamo dalle pagine del libro che è una studentessa modello. È iscritta al secondo anno del liceo classico, e da quanto si intuisce leggendo il suo libro è tra l'altro davvero molto molto brava. Grazie allora ad Alberto Pellai, alla prossima settimana, buona giornata! Buona giornata a tutti! E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.